Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Oggi è una puntata speciale, come tante che abbiamo avuto e che avremo ancora, e parleremo di formazione. Non parleremo però di formazione con chi formazione la fa, ma con chi formazione la usa, ossia chi all'interno di un'azienda come manager ritiene che sia uno degli elementi differenzianti del valore dell'azienda e della capacità competitiva dell'azienda all'interno dei contesti nei quali opera. Prima però ascoltiamo la nostra breve scheda dedicata all'argomento. Formazione, un termine quasi abusato in azienda. Eppure in questi tempi che cambiano così velocemente, diventa uno strumento di qualificazione per chi è al termine del suo percorso di studi, per acquisire conoscenze specifiche nell'ambito in cui vorrebbe cimentarsi, per i professionisti come percorso di rilancio di una carriera adagiata su un litorale ormai poco frequentato, o per i top manager per comprendere e governare i nuovi modelli relazionali tra i soggetti di mercato e alimentare le proprie capacità di pensiero strategico. Ma se i primi oggi vedono questo percorso come un dovuto prolungamento e i secondi come un'opportunità, per il top management e gli imprenditori è visto come tempo impiegato in modo non fruttuoso. Nelle aziende di medio-grandi dimensioni, il tempo medio dedicato alla formazione è di 6 minuti ogni 6 mesi. Poca voglia di mettersi in gioco, timore di essere giudicati non all'altezza, ma è proprio così? Ed eccoci qua di nuovo insieme con Radio Next, Pepe Moder al microfono, con un nuovo ospite. Oggi abbiamo ai nostri microfoni Carla Sora, che è il direttore generale di Agroittica Lombarda. Benvenuta con noi Carla e buona giornata. Grazie. Innanzitutto, Agroittica Lombarda. Beh, il mare in Lombardia non c'è, per cui esatto, che cosa fa? Evocativo. Esatto, che cosa fa Agroittica Lombarda? Allora, Agroittica Lombarda è una società che è nata verso la fine degli anni 70 ed è una società attiva nell'acquacoltura. La vera vocazione di Agroittica, ed è il motivo per cui è famosa nel mondo, è che è un brand molto famoso per il caviale a marchio Calvisius. Ma il caviale non è russo? Il caviale non è solo russo, anzi, ci tengo a specificare che Agroittica è il più grande produttore mondiale di caviale di qualità. Quindi significa che nei nostri allevamenti sono 60 ettari con 150 vasche su due distinti allevamenti. Alleviamo storioni. La bellezza di storioni, parlo di circa 300.000 pesci, sia da quello piccolino che teniamo in nursery fino allo storione da 70-80 kg e anche più, dipende sempre dall'età. Quindi tu mi stai parlando di un'azienda italiana che è riuscita a far meglio delle aziende dove questa cultura del cibo, in particolare che è quella del caviale, è nata. Sì, c'è da dire una cosa, il caviale lo colleghiamo giustamente alla Russia, all'Iran, ma in questo caso lo storione non era allevato, erano storioni selvaggi dal Mar Caspio. Nel momento in cui lo storione è entrato nelle liste di conservazione del CITES, che è la Convenzione Internazionale per la tutela delle specie, quindi anche dello storione a partire dal 98, lo storione oggi viene allevato, quindi non è più pensabile pescarlo. Lo abbiamo anche nel polo storione, grazie anche al ripopolamento cui Agroittica partecipa con il Naccari, che è uno storione particolare. Che nasce nel Po, e abbiamo contribuito nel 2016 ripopolando ben 1800 pesci. Accidenti. Per riportarli al loro habitat. Però diciamo che oggi il caviale è da allevamento, quindi sicuramente Agroittica nasce per questa vocazione, unendo tra l'altro un disegno imprenditoriale molto interessante, perché nasce nella Bassa Bresciana orientale, non lontano dal Garda, dove esiste vicino all'allevamento l'acciaieria, perché sia l'acciaieria che l'allevamento hanno bisogno di acqua e di energia elettrica. Utilizzando, sfruttando il calore dell'impianto di raffreddamento, quindi tramite un sistema di scambiatore di calore, ancora oggi noi scaldiamo le vasche della vanotteria che è praticamente la nursery dei nostri piccoli storioni. Grazie al caldo prodotto dall'impianto siderurgico, quindi direi proprio il massimo del quindi un open innovation ante litteram, dove le aziende cominciano a lavorare insieme, si scambiano conoscenze, competenze e capacità di settori totalmente diversi. Settori diversi che sfruttano le stesse capacità del territorio, perché la zona è molto ricca d'acqua, noi peschiamo l'acqua in profondità, abbiamo una falda molto capiente che deriva peraltro dal ghiacciaio del Maniva, quindi ha tutta una storia di acqua pura che ci consente ovviamente di mantenere il benessere dei nostri storioni, che ovviamente devono crescere in situazioni ottimali, altrimenti il caviale non sarebbe buono. Quanto fattura e quanti dipendenti ha Agroittica? Agroittica fattura circa 24 milioni, ha due unità diverse, sia il caviale che gli affumicati, siamo circa 100-110 persone, poi abbiamo dei picchi di stagionalità, perché ovviamente il Natale per noi è un momento molto significativo. Quindi stiamo parlando di una piccola azienda italiana leader nel mondo. Assolutamente sì. E quanto sono importanti per il business di una piccola azienda italiana leader del mondo i canali e gli strumenti digitali, e con quali obiettivi vengono utilizzati? Ma allora, sicuramente questo è un tema che riguarda Agroittica, proprio perché Agroittica è molto importante nel mondo, ma è piccola dimensionalmente e riguarda, credo, un po' tutte le aziende che oggi devono fare B2C, cioè superare i modelli che oggi il digitale ci impone in qualche modo di superare. Sono stata di recente a una fiera del settore dove tutte queste eccellenze italiane, che veramente sono importantissime, sono rappresentate da piccole aziende che stanno però tramite il digitale emergendo, cioè riesci ad andare direttamente su un consumatore che ormai è un consumatore evoluto, che è sempre online, che è interattivo rispetto alla tua azienda. E quindi voi parlate direttamente con il consumatore, cioè vi contattano, vi cercano, vogliono sapere da voi, quindi bypassano tutta la catena della distribuzione. È una cosa che secondo me interessa in maniera particolare, questo fenomeno interessa in maniera particolare settori come il nostro, quindi piccole eccellenze che fanno della loro particolarità, della loro peculiarità il punto di forza. Quindi il consumatore è molto attratto da dove sa che c'è una filiera controllata, dove c'è un prodotto di qualità. Certo. E questo tipo di interesse alimenta un canale diretto che può essere alimentato tramite eventi, ma soprattutto tramite i canali digitali, per cui ti contattano, vogliono sapere, vogliono conoscere. Quindi sicuramente per noi il momento digitale è un momento importante, stiamo lavorando. E però in un'azienda di 150 dipendenti, la conoscenza degli strumenti, la conoscenza delle meccaniche, delle relazioni, del come comunicare e del come vendere attraverso il digitale, come si costruisce? Questa è una domanda importante. È chiaro che le risorse in un'azienda piccola sono limitate, quindi è molto importante che questo avvenga attraverso un processo di formazione delle risorse interne, e che possano quindi accedere a tutto quello che oggi viene offerto sul mercato, anche a livello secondo me molto alto come competenze, affinché le risorse interne possano crescere all'interno dell'azienda su questo settore. Ma la formazione è dedicata solo ai giovani, delle direttrici specifiche, o è aperta a tutti? È assolutamente aperta a tutti, anche al direttore generale che fa formazione. Fa formazione nel senso che la fa agli altri? No, la faccio ma la ricevo, nel senso che io stessa credo che il processo formativo è un processo di apertura mentale, è un processo di conoscenza, è un processo legato alla voglia di conoscere, di curiosità, quindi superando i paradigmi dell'obbligatorietà della formazione, perché è giusto, molte professioni stanno seguendo ormai da 15 anni i processi di formazione continua che sono sacrosanti. Quello che invece le aziende devono secondo me offrire o cercare di offrire ai propri dipendenti è un percorso diverso, che è un percorso che nasce dall'esigenza di crescita delle persone, che è una crescita che non può essere legata esclusivamente al fare un compito, ma devi cercare di aprire a 360 gradi quello che è il tuo mondo. Quindi nel momento in cui tu approfondisci determinate tematiche, tu accedi automaticamente anche ad altre tematiche adiacenti al tuo settore, ma che ti consentono di avere una visione più ampia. Ma il manager, il leader che frequenta un corso di formazione, un master, un corso di specializzazione, non può apparire ai suoi, al suo team come una persona non preparata? Secondo me c'è un po' questa, te lo chiedo perché è una domanda ovviamente, come dire, con dietro il trabocchetto, perché secondo me c'è un po' questa ritrosia da parte del management e della leadership a partecipare, ad imparare, al mettersi in discussione e al dire attenzione, io forse non so tutto, anzi forse sta cambiando il mondo e devo imparare nuove cose. Di fronte magari ai propri, no? E quindi al dire no, però non lo faccio perché poi loro pensano che io non so e quindi allora non mi riconoscono più la leadership. Ma credo che la leadership invece debba raccogliere questo tipo di segnali. C'è un leader moderno, un leader che vuole essere da guida per gli altri, deve dare il buon esempio e soprattutto deve mettersi in discussione, perché non siamo onniscienti. È necessario invece cercare di attrarre da questi master, da tutto quello che la formazione oggi offre, degli spunti importanti all'interno della propria azienda. Io personalmente, che ripeto, seguo master piuttosto che convegni quando si tratta di approfondire determinate specificità, mi porto a casa sempre qualcosa di nuovo, quindi credo che siano pregiudizi assolutamente da superare. Un manager, un direttore generale ha sempre da imparare. È anche un atteggiamento, secondo me, di umiltà nei confronti di quello, del mondo enorme che c'è intorno a noi. Se non hai l'umiltà per capire che hai solo da crescere, non ti metti in discussione e non migliori. Le aziende sono dinamiche. Sì, questo penso che sia uno dei limiti che a volte umani, sicuramente umani, ma che professionalmente bisognerebbe provare un po' a spingere oltre il proprio confine, perché rischiano veramente di limitare. Hai citato prima la parola master, siamo all'interno di una struttura che i master li fa tutti i giorni, che ne organizza un sacco, però le persone, i professionisti si domandano, ma servono davvero, cioè imparo veramente qualcosa oppure mi servono solamente per appiccicare un bollino al mio curriculum? Servono in due sensi, il primo è sulle competenze. Perché sicuramente, sì. Adesso se parliamo della business school del 24 ore, è chiaro che le competenze partono da livello molto alto. E, servono sicuramente per approfondire le proprie capacità professionali. Ma c'è un altro aspetto che non bisogna mai sottovalutare, che è quello del network. Quando tu partecipi ai master, tu hai possibilità di confrontarti con altri manager, con altre professionalità. E questo tipo di formazione è molto importante, perché va al di fuori della tua azienda e ti dà la possibilità di confrontarti a 360 gradi con quello che è il mondo esterno alla tua azienda. Questo secondo me è molto importante. Oggi, ed è uno strumento molto importante, esiste l'e-learning, che sicuramente è molto utile perché avvicina le aziende, quindi indubbiamente mi riferisco per esempio ai corsi per la sicurezza, tipicamente molti ormai utilizzano questo strumento. Non bisogna però dimenticare che questo è molto attivo, molto utile, ma deve essere abbinato anche alla formazione in aula, perché secondo me il confronto in questo tipo di ambiti è molto importante. Carla, qual è stata la vostra esperienza interna di fronte a queste tipologie di formazione? Siete riusciti a portarvi a casa un valore o ritenete che debbano essere ripensate o debbano essere avvicinate di più alle esigenze di business dell'azienda? In altre parole, quanto sono corsi scolastici e quanto sono invece corsi di business? Ma credo che questi corsi abbiano la capacità di unire un tema di vicinanza all'imprenditore, perché si parla di problemi reali delle aziende che tipicamente sono trasversali. Poi chiaramente all'interno di questi corsi è necessario anche fare un passo indietro e cercare di lavorare in squadra. Ma questo è anche molto utile. Nelle piccole aziende, che sono piccole e medie aziende, Agroitica comunque non ha grosse dimensioni, ma è un'azienda che partendo dall'allevamento e fino ad arrivare alla vendita ha tutta una serie di settori che devono essere coordinati fra di loro. In un ambito di questo tipo è molto importante essere interattivi e sapere fare squadra, e non è sempre facile perché hai poche risorse all'interno di un'azienda piccola. All'interno di questo master invece è possibile, nei master, quelli organizzati diciamo in aula, secondo me è molto positivo perché impari a giocare in squadra, a dare i ruoli alle persone, e questo secondo me, nella mia veste di direttore generale, è molto importante per ricordarsi dove vanno le persone, lasciare gli spazi alle persone perché crescano, però allo stesso tempo essere capaci di riportare in azienda l'output di queste persone. Per cui è una bella scuola poter affrontare con gli altri questo percorso. E cosa risponderesti a chi ti dice: ma io non ho tempo perché sono un manager, un dirigente, un direttore e non ho il tempo di poter seguire anche un master? È una questione di priorità, dipende da che priorità dai alle cose. Per me questa è una delle priorità. La formazione è prioritaria, la digitalizzazione fa parte delle priorità, e le due cose in questo momento sono estremamente connesse. Assolutamente connesse. Credo che sia un momento storico anche importante in cui non vadano persi i treni. Poi tutti lavoriamo tantissimo, bisogna anche sapere lavorare al meglio. È anche una questione di come impegni le tue risorse. Oltre ai master, oltre ai corsi di specializzazione, corsi di formazione, ci sono altre modalità di fare formazione, o meglio di imparare, no? Abbiamo visto in una puntata precedente, abbiamo parlato di un evento importante, il Dimexco, quindi questi grandi eventi che portano di fronte a platee estremamente importanti, pensatori, visionari, ma ci sono anche metodologie per imparare, il learning by doing, no? Cioè l'imparare mentre sto facendo, lo sperimentare. In un'azienda, diciamo piccola o media, insomma, come può essere quella, come può essere Agroittica, quanto spazio c'è per imparare mentre si sta facendo, nello sperimentare, nello sbagliare ed imparare dai propri errori? Allora, questo credo che sia anche questo un atteggiamento culturale. Io credo che le persone debbano essere accompagnate, ma devono anche essere lasciate fare, cioè si impara anche sbagliando. Sì. E questo è una delle cose che noi facciamo. Cerchiamo comunque di dare libertà alle persone, perché comunque io credo che lo stile di management più efficiente sia quello che crea sulle persone la possibilità di crescere, di imparare, ma di affermarsi in quello che fanno. Quindi ci deve essere sicuramente questo tipo di libertà. Diciamo che i modelli autoritari funzionano poco ormai, ma soprattutto sono superati, perché ormai non sono più in grado di gestire. Io credo che tutto quello che oggi ha a che fare con lo smart working, cioè sulla possibilità di lavorare fuori dall'ufficio, ormai compiuti gli anni della quarta rivoluzione industriale, che è quella digitale, sia necessario anche capire che gli strumenti sono diversi, che una persona può anche lavorare da casa, può lavorare dall'aeroporto, può anche lavorare perché è in ferie ma ti dà una mano, e va fatto in un'ottica veramente di scambio, no? Orientamento al delivery, voglio raggiungere il risultato a prescindere dal fatto che sia 9:18 oppure un altro assolutamente orario. Assolutamente sì. Che ci deve essere libertà degli strumenti, questo credo che sia un passo importante. Gli strumenti oggi ti consentono di farlo, vanno sfruttati. Io ringrazio Carla Sora per la sua partecipazione e per la splendida e deliziosa chiacchierata che abbiamo avuto oggi insieme. Carla Sora, direttore generale di Agroittica Lombarda, che ci ha accompagnato lungo questa chiacchierata. Ringrazio io Pepe e tutti gli ascoltatori di Radio 24. E anche per questa puntata di Radio Next è tutto. Grazie per averci seguito e per essere stati con noi. Vi ricordiamo che potete trovare gli approfondimenti a questi argomenti sul sito Business School del Sole 24 Ore. Per qualsiasi provocazione, idea o consiglio, vi ricordo il nostro indirizzo di posta, che è radionext@radio24.it. Un saluto da Pepe Modena.